tecnici, sono medici, ingegneri, fisici, sono ricercatori, sono persone che fuggono dall'Italia perché purtroppo sappiamo che c'è questa spinta ad andare via, ma c'è anche tanta gente che proprio per il tipo di lavoro che svolge va all'estero perché è lì la sede naturale del suo lavoro. Il tuo libro è una vera e propria guida pratica come andare via dall'Italia. Quali sono i maggiori problemi che si incontrano quando si lascia il paese, in sintesi? Secondo me ci sono due aspetti che vanno considerati. Ci sono gli aspetti pratici della vita proprio quando si arriva in un paese nuovo e ci si confronta non solo con tutte le differenze sul piano pratico, ma l'adattamento culturale, quindi una diversa mentalità. Non è solamente un discorso di lingua, ma è anche un discorso di comprensione, di quel linguaggio non verbale, ecco, di quei segni, di tutto quel modo di comunicare che è differente rispetto al nostro. Dobbiamo imparare a leggere anche quei segnali. In estrema sintesi, ma i 2 o 3 consigli imprescindibili per chi si prepara a espatriare? Intanto un'autoanalisi iniziale, perché la vita all'estero non è detto che calzi bene a tutti. L'altro aspetto è pensare all'impatto che questa scelta di vita ha non solo su se stessi ma anche sulle persone che ci circondano. Quanto è grave, secondo te, il fenomeno di questa nuova immigrazione che ha, come dici tu, un alto tasso di personale qualificato? Il lavoro non è più circoscritto ai confini nazionali, il lavoro sempre di più sarà in giro per il mondo. E questo, secondo me, ha i suoi aspetti positivi, chiaramente, non solamente positivi, ma insomma bisogna saperli affrontare. L'importante è, secondo me, accedere a questa esperienza di vita avendo un'idea chiara o comunque il più possibile completa e realistica di quello che può comportare. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. Storie di giovani manager, oggi dal Messico, dove abbiamo ascoltato la vicenda di Mariano Erichiello, 29 anni, Business Development Manager, torniamo in Europa. In questo inizio di agosto sbarchiamo a Parigi per ascoltare la storia di Paolo Fusaro, 32 anni, manager a lavoro presso la multinazionale della grande distribuzione Carrefour. Lo abbiamo incontrato a maggio. Nome: Paolo. Cognome: Fusaro. Età: 32 anni. Città di origine: Aosta. Studi: laurea in economia aziendale. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2004. Per andare dove? Prima in Spagna e poi in Francia. Perché? Per cercare nuovi stimoli e ambire ad una carriera internazionale. Quale lavoro svolgi attualmente? Manager della marca propria Carrefour. Dove? A Parigi. Tornerai? Dubito vista la situazione economica attuale. Ridan 60 milioni di amici trasporta idealmente in Francia. Paolo, iniziamo da una considerazione che ha inviato a giovanitalenti@radio24.it, che illustra meglio di qualsiasi cosa la differenza tra Italia e Francia. A Parigi, è scritto, si impara ad avere grandi ambizioni e a osare. Negli ultimi anni ho spesso sentito la nostalgia dell'Italia, ho pensato a un ritorno, ma dopo parecchi curricula inviati, le poche risposte ricevute sono state sempre le stesse: troppo qualificato. Paolo, non è un controsenso pazzesco? Effettivamente sì, penso che in Italia oggi ci sia paura dei giovani che sono qualificati, c'è una classe manageriale piuttosto anziana che ha un modo di pensare piuttosto provinciale e c'è difficoltà a dare fiducia a delle nuove leve. La tua carriera si contraddistingue per una forte impronta internazionale fin dagli studi universitari, tra poco scopriremo perché. Prima però partiamo dai tuoi studi, economia aziendale a Torino, perché? Diciamo che era un corso di laurea piuttosto generale, io non avevo una chiara predilezione per un corso di laurea più tecnico, più preciso. Tu hai avuto la fortuna, forse è meglio dire il merito, di trascorrere 3 dei 5 anni di università all'estero. Dove, ma soprattutto perché questa scelta così netta? Spagna, Brasile e Argentina. Come mai? Sono state delle borse di studio che mi hanno permesso di avere delle buone opportunità all'inizio. Poi, una volta che uno si abitua a vivere e a studiare in un contesto internazionale, è difficile tornare indietro. L'università ti ha aiutato od ostacolato in questa scelta così radicale? Essere esploratori, aprire nuove strade, è apprezzato nei nostri atenei? Io penso che l'Italia non valorizza abbastanza queste scelte e piuttosto si dà importanza in Italia ai voti. Penso che il problema sia piuttosto quali sono gli incentivi che si danno ai giovani per partire ad acquisire un'esperienza

Non sono certo uno young expat, ma lo sono stato fino a 2 anni fa. Ho speso circa 11 anni all'estero, ricoprendo vari ruoli in un noto gruppo operante nel settore energia. Negli ultimi 5 anni di questa mia esperienza, l'azienda mi ha dato anche l'opportunità di crescere, assumendo un livello di poteri legali e operativi in campo finanziario non trascurabile, e dandomi quindi l'opportunità di imparare molto. Tornato in Italia 2 anni fa, con all'attivo questa esperienza, la buona conoscenza di altre 2 lingue a livello di business language, cioè francese e inglese, ho ritrovato incredibilmente quell'ambiente di cui parlavi. Bonaccia assoluta, senza vento, ma con tanta ignoranza, presunzione e mancanza di rispetto e considerazione. Qui in Italia le persone anche con ruoli dirigenziali medio-alti non parlano una parola, non dico di francese, ma neanche di inglese. L'ambiente di lavoro è statico e passivo e le opportunità di carriera fanno totale astrazione dall'esperienza professionale, manageriale e di conoscenze acquisite sul campo. Si basano al contrario su un rapporto fiduciario basato sulla filosofia delle parrocchie e del totale asservimento professionale e anche culturale delle persone. Sono stato costretto, anche perché ormai viaggio velocemente verso i 50 anni, ad accettare un doloroso compromesso con me stesso e le mie aspirazioni di valorizzare in Italia il mio bagaglio di esperienze. È impossibile riuscire qui se non hai una minima copertura politica. Non tanto nel senso dei partiti, ma nel senso dello scambio e dell'asservimento a qualcuno in azienda. E ti sto parlando di uno dei migliori e più avanzati ambienti di lavoro, uno dei primissimi gruppi industriali italiani ed europei. Ti confermo dunque che il nostro è un paese filosoficamente e culturalmente statico, fermo, in certo senso corrotto alla base, anche nei meccanismi di funzionamento della possibilità di affermarsi in base alle proprie capacità o delle esperienze acquisite sul campo. Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Veniteci a visitare sul gruppo aperto all'interno del portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti. Soprattutto non dimenticate di visitare il nostro blog ufficiale aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Qui postiamo le lettere, gli spunti e le riflessioni che ci inviate settimanalmente per email. Giovani Talenti rilancia infine la campagna d'estate. Siamo alla ricerca di nuove storie da raccontare nei prossimi mesi. Se siete under 40 espatriati nei più svariati settori professionali per vedere riconosciuti merito e competenza all'estero, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Aspettiamo le vostre lettere. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto allora i vostri contributi online e a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.